in primo piano. Cominciamo allora la rassegna stampa, che oggi mi sembra dominata da due temi sui giornali di questa mattina: le elezioni in Iran e quello che ha detto ieri D'Alema a proposito della possibile scossa sulla maggioranza e sul governo. E la stampa che dedica il titolo più visibile al tema della situazione iraniana, dove, come voi sapete, si è proclamato vittorioso delle elezioni presidenziali Ahmadinejad. Questo ha innescato degli scontri molto violenti che hanno avuto luogo nelle ultime ore a Teheran, suscitando grandi preoccupazioni, e oggi appunto la stampa titola in maniera molto visibile "Rivolta contro Ahmadinejad". Ci sono altri giornali che dedicano analogo spazio, per esempio il giorno, Iran nel caos, elezioni truffa, la Repubblica, Iran il pugno di Ahmadinejad, rivolte e violenze a Teheran, il regime arresta 170 riformatori. Il Messaggero, caos in Iran, centinaia di arresti, mistero sulla sorte di Mousavi, dice il giornale romano, Ahmadinejad, mai elezioni più pulite. Vi segnalo a questo proposito il commento sulla stampa appunto di Lucia Annunziata, la quale sotto il titolo eloquente "Sembra Tiananmen" scrive: c'è un solo parallelo capace di descrivere la sanguinosa rivolta in corso in Iran, appunto Tiananmen, la piazza di Pechino, dove esattamente 20 anni e 10 giorni fa, il 4 giugno del 1989, si concluse la speranza di riforma con l'intervento dei carri armati. Scrive Annunziata: ieri a Teheran la repressione feroce di una ribellione contro l'esito elettorale rende visibili le crepe aperte nel governo di Mahmoud Ahmadinejad. E poi continua la giornalista sottolineando come l'elezione che forse l'Occidente sperava di Mousavi sarebbe stata certamente molto comoda. E si capisce la passione con cui molti osservatori, scrive, dopo il verdetto delle urne si sono precipitati a sottolineare che la rielezione di Ahmadinejad è la sconfitta della speranza di pace per Obama e dunque per tutti noi. Ma non è un po' frettolosa questa conclusione di fronte agli eventi in corso? Infatti, secondo l'Annunziata, la vittoria di Mousavi non sarebbe stata comunque serena e pacifica, avrebbe provocato in ogni caso una spaccatura in Iran di natura molto più velenosa dell'attuale. Già adesso i riformisti italiani sono identificati come fantocci dell'imperialismo USA. E quindi conclude: una rottura pubblica, un dissenso che sfocia in lotta politica aperta, avvia invece, come dicevamo, una destabilizzazione profonda, una strada lunga, sanguinosa, ma con più potenzialità di provocare un solido cambiamento. Quindi, dice l'Annunziata, in fondo non si può dire meglio così, ma certamente si aprono delle contraddizioni molto forti in questa situazione iraniana, proprio con le elezioni così contestate, con la reazione così contestata al voto, che potrebbe mettere in moto un meccanismo anche di cambiamento e di riforma. Invece sul Corriere della Sera troviamo un'opinione piuttosto contraria. Fra l'altro il Corriere della Sera è l'unico giornale che non dà grandissima evidenza a questo tema in prima pagina, però pubblica a pagina 2 l'intervista a un dissidente che vive adesso negli Stati Uniti, Akbar Ghani, giornalista e politologo, il quale e scrive che sostanzialmente si sta trattando di un assestamento del potere intorno a Khamenei, che è la guida suprema, e dice il dissidente che il presidente, questa sua rielezione farsesca, esistono solo in quanto strumenti della lotta intrapresa dalla guida suprema, cioè da Khamenei, con gli altri titani, cioè gli altri capi della rivoluzione. Sembra che la guida abbia deciso di toglierli di mezzo. Ci saranno contorcimenti e graffi, ma il corpo del serpente, il regime nel suo complesso, resterà assolutamente integro. Quindi, come vedete, una opinione completamente opposta a quella che abbiamo ascoltato prima di Lucia Annunziata. E poi segnalo sempre su questo tema un intervento del direttore del New York Times sulla Repubblica, Bill Keller, il quale anche lui sottolinea come gli imbrogli ci siano stati, siano stati ammessi anche da alcune fonti del Ministero dell'Interno, delle fonti naturalmente non ufficiali, delle persone che hanno ammesso che non è stato manipolato il voto, ha dichiarato un uomo che ha chiesto di rimanere ovviamente anonimo. In realtà i voti non li hanno proprio guardati, si sono limitati a scrivere un nome e mettergli davanti un numero. Però anche Keller conclude un po' come diceva l'annunziata, sottolineando che l'elezione eventuale di Mousavi non sarebbe stato certamente una facilitazione della trattativa con l'Iran, solo perché egli sarebbe stato più cordiale. Il tema del voto in Iran si accompagna su molti giornali alla svolta, una svolta a metà, alcuni ritengono, ma comunque significativa, che ha fatto ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha annunciato che Israele è favorevole alla costituzione di uno Stato palestinese purché senza armi, e questo è il titolo che regge questa notizia nel Corriere della Sera in prima pagina. Vi dicevo che il Corriere non ha dedicato una grandissima attenzione al tema della rivolta in Iran, però c'è una vignetta che unifica, per così dire, i due temi principali della giornata, cioè questo delle reazioni in Iran e della situazione politica italiana. È la vignetta di Giannelli, il quale raffigura il presidente Ahmadinejad, il quale dice: vorrebbero sostituire me, Ahmadinejad, liberamente eletto dal popolo. Pausa di sospensione, poi aggiunge: nemmeno fossi un Berlusconi qualsiasi. E questo appunto introduce l'altro tema dominante sui giornali di oggi, cioè questa polemica, questo chiacchiericcio, chiamatelo come volete, sul tema suscitato ieri da D'Alema, il quale ha parlato di scosse nel governo, facendo capire che potrebbe succedere qualche cosa ancora dopo tutte le polemiche che sono successe nelle settimane scorse per Noemi, gli aerei e quant'altro, scosse nel governo che potrebbero portare a un cambiamento radicale, e questo titolo e questo tema naturalmente ha suscitato grande reazione nella maggioranza, soprattutto la quale ha visto in queste parole la vera e propria prova di un complotto che ci sarebbe per rovesciare il governo Berlusconi. E su questo ritornano molti giornali con titoli di apertura, per esempio Repubblica: Berlusconi attacca, D'Alema risponde, scosse nel governo. Il Messaggero: PDL duello sul complotto, D'Alema possibili scosse, tenersi pronti. Bossi: con la Lega la democrazia non rischia. L'Unità: vediamo una misteriosa fotografia di un'ombra, e infatti il titolo è Il governo delle ombre, i fantasmi di Berlusconi, il premier teme il complotto e attacca, D'Alema è un leader dimezzato, ci sarà una scossa, l'opposizione sia pronta. E poi naturalmente su questo si diffondono tanti altri commenti. Naturalmente significativo il titolo del Giornale, un giornale tradizionalmente vicino a Berlusconi, il quale apre e dice: rischio golpe, ecco i piani della sinistra. E il direttore Mario Giordano, sotto il titolo Quei fantasmi di un'estate tinta di giallo, dice: io non ho mai creduto granché ai complotti, però questa volta insomma i miei sospetti si diventano più fondati. Se non è un complotto, scrive Giordano, beh, quello che si sta tramando nelle segrete stanze se non altro ci assomiglia molto. Prendete D'Alema, di sicuro, come abbiamo avuto modo di dire, lui è intelligente per definizione. Allora, perché uno così intelligente per definizione si lascia andare ad annunciare possibili scosse al governo? Di quali scosse sta parlando? E perché avverte i suoi di tenersi pronti? E come fa a parlare di Berlusconi come di un leader dimezzato? Dimezzato di che? Baffino, che sarebbe appunto D'Alema, si sa, oltre che di regate, il massimo esperto anche di fregate. Quello del tramo nell'ombra e abbatto il premier democraticamente eletto è un genere che ha praticato con una certa dimestichezza in passato, e qui Giordano per la verità si riferisce a Romano Prodi. Quindi tema che suscita grandi interrogativi, ci sono commenti ulteriori, per esempio quello sul Corriere della Sera di Massimo Franco, il quale titola L'opposizione smarrita e sottolinea come queste parole un po' misteriose di D'Alema, insomma, ci sia un disegno politico non chiaro e che sarebbe utile appunto svelenire e chiarire. Questa strategia, scrive Franco, consegna al paese l'immagine di un'opposizione tanto aggressiva quanto smarrita e pronta a tutto, e all'opinione pubblica internazionale quella di un'Italia difficile da decifrare seguendo le categorie della normalità. Il centro-sinistra sembra scommettere su una crisi di breve del governo, sul rapporto freddo tra Berlusconi, il presidente USA Obama, e su un G8 all'Aquila al quale il premier dovrebbe arrivare affannato se non delegittimato. E conclude, per paradosso, gridando al complotto Berlusconi. Berlusconi non ha tanto rivelato i propri incubi, ma i sogni proibiti dell'opposizione. È possibile che la parabola discendente del Presidente del Consiglio stia per iniziarsi o sia già cominciata. Eppure si rafforza la sensazione che anche in quel caso a beneficiarne non saranno i suoi avversari, almeno che fino a che per vincere punteranno sulle disgrazie del Cavaliere e non su una proposta alternativa convincente. Naturalmente, ci sono molte tesi, per esempio sullo stesso giornale, il quale cavalca la tesi del complotto, c'è un articolo di un esperto di complotti che come tale si definisce, Geronimo, che dice: ma quale complotto? Quelli dovrebbero essere le persone del complotto. Si era parlato di un governo Draghi, dice Draghi è assolutamente improponibile come presidente del Consiglio, allo stesso modo è improponibile, Gianni Letta, il quale è troppo fedele a Silvio Berlusconi per prestarsi una manovra del genere. Secondo Geronimo non ci sono le condizioni politiche. Le forze che scesero in campo nel 92 sono di nuovo all'opera, e hanno probabilità di riuscire nel loro intento? Secondo lui no, perché sono indebolite, perché oggi c'è un governo che ha una maggioranza granitica in Parlamento e perché non c'è più un partito d'opposizione come allora il Partito Comunista, che era radicato sul territorio, è una grande borghesia azionista piena di quattrini e capace di collocare sulla stessa linea tutti i maggiori organi di informazione, facendo così sponda anche a manine d'oltreoceano. Queste condizioni non ci sono più e quindi parlare di complotto oggi è veramente sbagliato. Segnalo su Repubblica l'analisi post-elettorale di Ilvo Diamanti, è un'analisi che prende in esame soprattutto la situazione del partito di Pietro, dell'Italia dei Valori, sottolinea come questo partito abbia un impianto urbano e metropolitano, abbia tre orientamenti specifici molto marcati, l'importanza attribuita al ruolo moralizzatore e al tempo stesso rivoluzionario della giustizia, la sfiducia nei partiti, nelle istituzioni. E infine la totale, incondizionata, irriducibile avversione verso il premier leader del PDL Silvio Berlusconi. E questo indebolisce molto, secondo Diamanti, l'opposizione, o meglio il PD, perché l'Italia dei Valori si presenta in questo modo come un'alternativa, più che come un'alternativa politica, un'alternativa alla politica, almeno a questa politica, e appare quindi efficace come soggetto e strumento di opposizione, ma non di progetto né di governo e neppure di aggregazione. Il suo successo, invece, aggiunge Diamanti, rende più evidenti i limiti del PD. Da qui il problema del centro-sinistra, conclude, sottolineato da queste elezioni. Mentre il PD è nato per unificare il centro-sinistra e portare al governo, oggi questa strategia è messa in difficoltà appunto dalla forza dell'Italia dei Valori. Oggi appare debole nella testa e nei piedi. Il partito è ridotto, scrive Diamanti, al 26%. All'Europea dell'84, 25 anni fa, quando morì Berlinguer, il PC da solo ottenne 11 milioni e 600 mila voti, il 33%. Divenne per la prima e unica volta primo partito in Italia. Oggi siamo molto lontani da quei numeri. E per non restare, conclude Diamanti, all'opposizione in eterno, il PD quindi deve cambiare. Deve porsi il problema che si pose allora il Partito Comunista: rompere con la propria tradizione e la propria organizzazione. Voglio adesso segnalare alcuni temi che sono stati approfonditi dai giornali di oggi. Innanzitutto, per concludere la pagina politica, vi segnalo il commento sul Foglio di oggi, sul Foglio di oggi dedicato a Fini, il commento dell'elefante, il quale sottolinea come, prendendo spunto dalla posizione anti-Gheddafi assunta da Fini, sempre di più Fini ragioni un po' si ponga come l'anti-Berlusconi, e scrive Ferrara: Fini non avrà mai lo charme demotico di Berlusconi e non potrà mai sfidarlo direttamente, ma gli basta la sua tecnica professionale unita allo spirito di conversione solitaria che lo ha con ogni evidenza visitato per essere credibile come candidato alla successione. E conclude l'elefante: perché non dovrebbe riuscire a un leader di destra europea post-fascista con un lungo lavoro sistematico di ricostruzione culturale e civile il compito di dare un assetto stabile e credibile a un partito ed un'alleanza costruite negli anni con il genio capriccioso di un grande outsider come il Cavaliere? Un tema del quale si è parlato molto e si continuerà a parlare in questi giorni, naturalmente, è quello della legge sulle intercettazioni. Su questo interviene sulla stampa oggi Luca Ricolfi. Un titolo provocatorio che fa la legge che piace alla casta. Sostanzialmente Ricolfi, prendendo spunto dal fatto che questa legge è stata votata anche con il voto di una ventina di deputati dell'opposizione, conclude sostanzialmente che ai politici questa legge che vieta la pubblicazione delle intercettazioni in fondo piace. Prende in esame le difficoltà che questa legge potrà sollevare. Scrive Ricolfi che l'effetto delle nuove norme è indubbio che sarà di rendere molto più difficile l'identificazione dei colpevoli di un delitto. I cittadini, secondo un sondaggio che è stato pubblicato proprio dal Sole 24 Ore, un sondaggio Ipsos, secondo questo sondaggio i cittadini in maggioranza stanno con i magistrati e contro il governo, preferiscono sacrificare un po' di privacy pur di avere più sicurezza. Insomma, che i magistrati intercettino pure, scrive Ricolfi, ma che i giornalisti non esagerino con la diffusione del contenuto delle conversazioni. Ci troviamo così di fronte a due fatti entrambi spiazzanti. Il primo è che, secondo Ricolfi, la maggior parte dell'opinione pubblica è e resta giustizialista, nonostante gli eccessi che egli dimostra, e nonostante, a riprova del fatto, scrive che non esiste un'opinione pubblica liberale. Secondo fatto spiazzante, aggiunge, riguarda il governo, eletto anche grazie alla promessa di combattere la criminalità, sta per varare delle norme che ridurranno la sicurezza dei cittadini, e lo sta facendo in barba ai sondaggi. Per quale ragione fa questo? Per varie ragioni, innanzitutto perché appunto la legge piace ai politici, la seconda perché l'effetto della legge sarà di alleviare la pressione su un sistema carcerario avviato al collasso. Meno intercettazioni significa meno colpevoli scoperti, quindi meno condanne, quindi meno ingressi in carcere, scrive Ricolfi. Terza e più seria ragione per la mancanza di concorrenza, scrive il politologo. A parole la sicurezza interessa a tutte le forze politiche, ma non vi è nessun partito importante pronto a sfidare il governo su questo terreno. Quindi un nuovo richiamo al Partito Democratico. Un altro tema del quale si è parlato in questi giorni, che ha suscitato grande interesse, è la riforma dei licei. E su questo tema segnalo un breve commento di Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera. E Maurizio Ferrera sottolinea il fatto che tornandosi ai voti occorrerebbe stabilire un criterio perché questi voti siano credibili in tutta Italia. Non è possibile, infatti, scrive, che alla maturità classica del 2008 i licei pubblici della Calabria abbiano assegnato ben 135 lodi, mentre in Lombardia ne siano state assegnate solo 39. L'impressione, scrive, è che il nostro paese stia superando le soglie di guardia e che il sistema dei voti, formalmente tutti uguali, ovunque conseguiti, faccia sempre più fatica fornire segnali affidabili e comparabili su competenze e merito, proprio per questa disparità di trattamento. E quindi occorre stabilire dei criteri che rendano la valutazione credibile un po' in tutta Italia. Il Corriere della Sera sempre affronta un tema molto significativo, sul quale probabilmente ci dovremo confrontare anche noi in Europa, che è la situazione dei conti pubblici in California. Come voi sapete, qualche mese fa è stato bocciato in un referendum la proposta di aumentare le tasse. Oggi il governatore Schwarzenegger ha risposto a questa bocciatura tagliando praticamente tutti i sistemi, tutti i servizi sociali, per dimostrare appunto che cosa succede a un grande paese, a una grande nazione, a un grande stato come la California, se non si vogliono pagare le tasse. Il welfare va riformato, e quindi questa è un po' una provocazione per dimostrare che non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca. Naturalmente, grande spazio sulla Gazzetta dello Sport alla spettacolare vittoria ieri a Barcellona di Valentino Rossi. Sull'Unità e sul Giorno, invece, gli unici due giornali quali dedicano in prima pagina un ricordo al cantautore Ivan Della Mea. E un altro tema importante al quale siamo tutti molto sensibili è quello dell'ambiente. Giovanni Sartori torna su un tema che gli è caro da qualche mese a questa parte, quello della sovrappopolazione. Il Corriere della Sera dimostra in un ampio servizio come, secondo alcuni scienziati, vi sia un nesso tra la variazione climatica e la diffusione di nuovi germi e di nuove malattie. Un articolo accompagnato da una cronaca sulle posizioni contrarie, sulle posizioni degli scienziati che ritengono che non esista un problema di riscaldamento globale e soprattutto che questo riscaldamento non sia dovuto all'intervento dell'uomo. E con questo vi ringrazio e vi auguro buona giornata.